GR24, il sole 24 ore. La crisi politica e i mercati finanziari, sale lo spread e crolla alla borsa, raffica di sospensioni al ribasso. La Boccassini su Berlusconi ha una strategia per dilatare i tempi del processo Ruby. Ghedini risponde: vogliono una sentenza prima delle elezioni. Ancora un trimestre in calo per il prodotto interno lordo e la produzione industriale. Per l'Istat, un quarto degli italiani a rischio povertà. All'Unione Europea il Nobel per la pace, in questi minuti ad Oslo la cerimonia di consegna. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. Il ritorno di Silvio Berlusconi con le conseguenti dimissioni annunciate da Mario Monti stanno creando tensioni soprattutto sui mercati finanziari. Allora iniziamo anche questa edizione proprio dalla borsa e dai mercati dei titoli di Stato. Deborah Rosciani in diretta, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dopo aver tormentato per oltre un'ora gli ascoltatori su questo argomento, dobbiamo inevitabilmente continuare a monitorare quello che sta accadendo sui mercati finanziari. Lo spread fra BTP e Bund adesso è a 357 punti base, livelli che in passato avevamo già visto ma che avevamo anche abbandonato con una certa soddisfazione, fino ad arrivare a toccare proprio martedì di una settimana fa i 292 punti, livelli che non si vedevano da marzo scorso. Oggi la nuova fiammata determinata dalle dimissioni annunciate sabato scorso dal presidente del Consiglio Mario Monti e la crisi politica appunto che ne consegue, con la mancanza dell'appoggio appunto a questo governo da parte del PDL, mancanza di appoggio politico che naturalmente farà mancare il voto a molte riforme in attesa di essere approvate e definite una volta per tutto. Ci sarà solamente l'appoggio per la legge di stabilità. Questo porta, dicevamo, a questa considerazione da parte dei mercati finanziari internazionali rispetto a quello che sta accadendo in Italia. Lo spread, ve l'ho già detto, la borsa scende in maniera molto pesante, meno 3,35% adesso sul FTSE MIB. Il picco minimo è stato toccato a meno 3,60 e chiaramente questa caduta è determinata sostanzialmente dal ribasso pesantissimo dei titoli del settore bancario che accusano l'allargamento dello spread. I peggiori titoli con un calo di 7 punti adesso sono Monte dei Paschi e Popolare dell'Emilia Romagna, ma meno 6,8, meno 6,7 lo registrano anche il Banco Popolare, Intesa San Paolo, Popolare di Milano, oltre 6 punti di ribasso per Unicredit, per Ubibanca e tutti gli altri titoli bancari ed assicurativi scendono appunto oggi a Milano con prestazioni superiori in negativo al 3%. Si salva solo STM che in avvio di seduta guadagnava 8 punti dopo la presentazione del suo piano industriale, ma sotto la pressione delle vendite che riguarda tutta la borsa STM adesso limita il suo rialzo a un più 1,62%. Sono negative anche le altre piazze europee ed è particolarmente significativo il calo della Spagna che perde oltre 2 punti percentuali e la Spagna risente proprio della crisi italiana che contagia anche gli altri paesi europei. Direi che per il momento, Enrico, è tutto. Grazie Deborah, buon lavoro. Detto della situazione dei mercati finanziari, adesso la pagina politica. Ci colleghiamo con Roma. Naturalmente c'è preoccupazione prima di tutto per i tanti provvedimenti approvati dal governo che attendono il via libera del Parlamento e non tutti riusciranno a terminare l'iter. Ci aggiorna in diretta da Roma Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. L'accelerazione impressa alla fine della legislatura dall'uscita di fatto dalla maggioranza da parte del Popolo della Libertà modifica quindi l'agenda parlamentare di dicembre. Si mira a questo punto ad approvare entro il 21 i documenti di bilancio e gli altri decreti. In primo piano c'è la legge di stabilità. Dopo il sì della Camera, l'ex finanziaria è al Senato. Domani la Commissione bilancio inizierà a votare gli oltre 1.500 emendamenti. L'approdo in aula è previsto per martedì 18 dicembre. Il provvedimento potrebbe trovare però sulla sua strada il decreto sviluppo ormai in scadenza e destinato a tornare proprio a Palazzo Madama la prossima settimana in terza lettura. Per ovviare ad eventuali colli di bottiglia parlamentare, alcuni decreti potrebbero allora finire nella stessa legge di stabilità che diverrebbe così omnibus, è il caso proprio del decreto sviluppo e di quello sull'ILVA. Più difficile invece che vedano la luce il disegno di legge di attuazione del pareggio di bilancio in Costituzione e i decreti legislativi sulle liste pulite. Altro capitolo è il decreto che riordina le province. Il Popolo della Libertà vuole porre la questione di legittimità costituzionale. Il Partito Democratico con Enzo Bianco parla di follia, lo ha intervistato Katia Caramelli. Ascoltiamo. Si rischia una situazione di assoluta ingovernabilità delle province e del sistema territoriale italiano, perché questo decreto non è il primo atto di una serie di azioni diciamo, legislative, ma è un completamento di un percorso che è stato già affidato e già iniziato con altri provvedimenti. In buona sostanza non si capisce bene che cosa farebbero le province, quali sono le competenze, le funzioni fondamentali, chi si occuperà delle scuole, e anche, devo dire, un comportamento virtuoso, quello di cercare di ridurre il costo della spesa pubblica, di ridurre il numero dell'apparato del costo della politica, di dare una sforbiciata alle province, naturalmente è una cosa giusta e opportuna su cui a parole tutti sono d'accordo, sarebbe veramente una grave iattura. Si sta valutando quindi un possibile accordo che in realtà ci sarebbe già su alcuni punti. Avevamo lavorato seriamente, devo dire, con l'altro relatore del PDL, col collega Saltamartini, con il governo, che è stato disponibile ad apportare miglioramenti dal punto di vista sia ordinamentale che territoriale, e il testo, diciamo, che noi oggi esamineremo stasera in Commissione Affari Costituzionali era un testo largamente concordato. Ecco perché dico, a questo punto, anche, diciamo, a crisi virtuale aperta, sarebbe un segnale di grande responsabilità approvare questo decreto legge e poi, naturalmente, come dire, andare all'apertura della crisi, visto che ormai il destino è tracciato. Bene, questa è la situazione per quanto riguarda i provvedimenti che attendono il via libera del Parlamento, e anche sul fronte politico la situazione è estremamente incerta. Ci aggiorna e ci fa un po' il quadro della situazione Elisabetta Fiorito in diretta da Roma, buongiorno. Sì, proprio così, l'unica certezza è che per la prima volta nella storia della Repubblica la crisi verrà aperta a Natale, la campagna elettorale avverrà in pieno inverno. Mario Monti non scioglie ancora la riserva se candidarsi o meno come premier, ma gli ultimi avvenimenti danno ormai come possibile una sua ridiscesa. Il premier lo dice chiaro e tondo al Corriere a Repubblica: le mie dimissioni erano doverose dopo l'intervento del segretario PDL Angelino Alfano alla Camera, di fatto una sfiducia. Ma, precisa Monti, non si può dilapidare un tesoro. Adesso manca solo l'approvazione della legge di stabilità, poi ci saranno le dimissioni, probabilmente entro fine anno, e il voto potrebbe essere il 24 febbraio. Intanto gli schieramenti si preparano, Silvio Berlusconi conferma la candidatura e l'alleanza ormai ventennale con la Lega. Poi il Cavaliere apre la porta al sindaco di Firenze Matteo Renzi, è il benvenuto, spiega il Cavaliere, porta che per Renzi si può richiudere tranquillamente, e il sindaco di Firenze si sbriga a dire: non mi compri. Dall'altra parte il segretario PD Pierluigi Bersani conferma di essere lui e non altri il candidato di centrosinistra, mentre Luca Cordero di Montezemolo continua a pensare ad una sua discesa in campo per mandare Monti di nuovo a Palazzo Chigi, con lui anche dissidenti del PDL che ormai hanno lasciato il partito, come Isabella Bertolini, mentre Franco Frattini chiede un PPE italiano. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Il punto di Stefano Folli. I mercati e le borse sono entrati in modo dirompente nella nostra campagna elettorale. Non ci voleva molto a prevederlo. L'Italia era ed è un convalescente in Europa e viviamo in un mondo sempre più interdipendente. Ora le dimissioni annunciate da Monti in seguito al ritorno in campo di Berlusconi hanno creato uno shock e sollevato inevitabili dubbi e interrogativi sul futuro prossimo. Attendiamoci altre scosse e soprattutto altre domande dei nostri partner. Ne deriva che la stabilità resta l'obiettivo prioritario di un sistema politico debole che proprio per questo ha bisogno di trasmettere certezze e di definire in fretta i suoi nuovi equilibri. Faremo le elezioni nel più breve tempo possibile, certo, ma subito dopo è necessario che il governo del Paese risponda con i fatti a questi interrogativi dei nostri amici. È pericoloso giocare col fuoco. Sulla scelta di Berlusconi arriva anche il commento del procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini. Il nuovo clima politico irrompe immediatamente nelle aule del Palazzo di Giustizia di Milano e al processo Ruby è subito reciproco scambio di accuse tra la procura e la difesa, l'oggetto, ancora una volta come in passato, i tempi del processo. Sarebbe dovuto essere il giorno di Ruby, il giorno della deposizione della parte offesa nel dibattimento a carico di Silvio Berlusconi per concussione e prostituzione minorile, ma la giovane marocchina non si è presentata, è all'estero e non è raggiungibile da un mese, ammette il suo avvocato. Una situazione che per il procuratore aggiunto Ilda Boccassini ha un solo chiaro significato: è una strategia, attacca per arrivare a campagna elettorale. L'imminente ritorno al voto entra dunque all'interno delle aule del Tribunale come ultimo fronte di reciproche accuse intorno al processo dell'ex premier. Se il PM accusa dunque la difesa di allungare i tempi, l'avvocato di Berlusconi rincara: è la procura che vuole arrivare a sentenza prima del voto. Si torna in aula il 17 dicembre, udienza per la quale è stata convocata di nuovo Ruby. La procura aveva chiesto di rinunciare ad ascoltarla, ma per la Corte non è né superfluo né irrilevante, per cui ora la polizia giudiziaria la cercherà dappertutto. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso vediamo e sentiamo soprattutto come la crisi politica viene vista dall'estero. Partiamo dalla Stampa. Il ritorno di Silvio Berlusconi al potere sarebbe un disastro per l'Italia e per l'Europa intera. Questo è il giudizio del Financial Times. Le sue chance di essere nuovamente eletto, continua il quotidiano britannico, paiono relativamente basse, ma è sorprendente, scrivi l'FT, che ne abbia ancora qualcuna. Ma sentiamo come viene commentata la notizia dagli altri quotidiani. La mummia di Liberation, la piovra del Financial Times. Sono alcuni ritratti usati dalla stampa internazionale per descrivere Berlusconi e il suo ritorno in politica. Sul quotidiano della City si legge: le dimissioni di Monti agitano l'Italia. Sempre in prima pagina una foto del premier uscente a capochino. Nelle pagine interne ritorna lo humor inglese e si legge: in Italia riprende il servizio normale. Va meno per il sottile il Times, quando sottolinea come Berlusconi, decidendo di tornare in corsa per Palazzo Chigi, usi la politica per evitare il tribunale. Insomma, a guardarli uno dopo l'altro, i visi dei politici che si ricandidano in Italia e i titoli dei giornali italiani e stranieri, si ha la conferma, così come già detto, di stare vivendo un gigantesco e collettivo déjà vu. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Della crisi politica italiana si parla anche ad Oslo, e adesso vi spieghiamo perché a Oslo, dove sono riuniti molti leader europei. Gigi Donnelly in diretta dalla capitale norvegese. Allora Gigi, spiegaci perché Oslo. Dunque, ancora buongiorno Enrico e agli ascoltatori. 10 dicembre, dunque si celebra di fatto l'anniversario della scomparsa di Alfred Nobel, e dunque ogni anno qui la consegna del Nobel per la pace. Come sapete, ne abbiamo parlato a lungo, questa volta il 2012 è stato attribuito all'Unione Europea. Proprio 10 minuti fa, grande ingresso solenne nella sala accanto alla quale mi trovo ora, sovrani di Norvegia, naturalmente capi di Stato tra loro, capi di Stato e di Governo, tra loro anche primo ministro uscente Mario Monti, che è entrato nella sala accanto al capo del governo Berga Di Rupo e ha preso posto in seconda fila subito dietro la cancelliera Merkel e il presidente francese François Hollande. Dunque d'Italia si parla parecchio, come dicevi, e con preoccupazione. Ieri era stato Schulz, oggi Barroso, in forma se vogliamo più moderato. Il concetto però è lo stesso, la stabilità che si era trovata ora preoccupa. Molti i commenti, devo dire anche molta la sorpresa, e forse in questo caso va accennata, tra i colleghi giornalisti che in queste occasioni si raccolgono da tutto il mondo per quanto sta accadendo in Italia. Dall'altra parte naturalmente c'è la festa. Vi abbiamo parlato di una giovane italiana che ha vinto grazie a un Twitter un posto, pensate, in quinta fila a questa cerimonia. Poco fa, prima dell'inizio della cerimonia, parlava niente po' di meno che con il presidente della BCE, Mario Draghi. Enrico. Bene, grazie a Gigi Donnelli, e tra poco sentiremo appunto la voce di Elena, che è stata scelta per avere fatto un tweet, ed è stato il migliore tweet all'interno dell'Unione Europea, proprio sulla pace. Adesso le altre notizie per concludere questa prima edizione, questa prima parte di GR24. Partiamo da una buona notizia per 1800 lavoratori dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata San Carlo a Roma, perché il commissario straordinario della sanità nel Lazio, Enrico Bondi, ha annunciato oggi l'avvio della procedura di liquidazione a favore di questi lavoratori. Il tribunale fallimentare si è pronunciato a favore di questo sblocco, lo sblocco delle fatture dal 24 ottobre ad oggi, per un importo di circa 5 milioni di euro. È stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli una rete di imprese campane che avrebbero evaso il fisco per oltre 80 milioni di euro. Le aziende erano capeggiate da una società di Cesena, responsabile di aver utilizzato un'altra società fittiziamente localizzata in Germania per simulare l'acquisto di milioni di euro di prodotti in esenzione dell'IVA per poi rivenderli in Italia. Sono complessivamente 43 le persone indagate. Un'ultima notizia che arriva da Firenze, una notizia di poco fa. Denis Verdini del PDL è indagato a Firenze con altre 24 persone per truffa aggravata allo Stato circa contributi pubblici per testate giornalistiche dal 2002 al 2012. Indagati anche l'onorevole Massimo Parisi, sempre del PDL, imprenditori ed editori. La truffa riguarda il Giornale della Toscana e Metropoli. Si parla, la procura parla, di 22 milioni di euro di truffa. L'interrogatorio dal PM è previsto per il 24-12. E come dicevamo nei titoli, oltre un quarto degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. Lo afferma l'Istat in un rapporto presentato oggi, Reddito e condizioni di vita, precisando che nel 2011, a questo anno si riferiscono i dati, il 28,4% delle persone residenti risultava a rischio povertà, in crescita di 2,6 punti percentuali rispetto al 2010. E oggi, sempre l'Istat ha comunicato altri dati, quelli che riguardano il prodotto interno lordo e la produzione industriale. Allora, per quanto riguarda il PIL, nel terzo trimestre è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e del 2,4% su base annua. Si tratta del quinto trimestre negativo consecutivo. E poi, come dicevamo, anche dati sulla produzione industriale. La produzione industriale ad ottobre ha registrato un calo del 6,2% su base annua, dato corretto per effetti di calendario, e dell'1,1% su base mensile. Lo ha comunicato l'Istat precisando che si tratta del 14° calo tendenziale. Nella media dei primi 10 mesi dell'anno la produzione è diminuita del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La diminuzione più marcata riguarda i beni intermedi, -8%, ma cali significativi si registrano anche per i beni strumentali, -5,8%, i beni di consumo -5,5% e l'energia -4,4%. I settori dell'industria che risultano in crescita sono invece quelli relativi alla fabbricazione di prodotti chimici +1,1%, le industrie alimentari e bevande e tabacco +0,4%. Il settore che ad ottobre registra invece la diminuzione più pesante è quello della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. Crolla infine la produzione di autoveicoli. Ad ottobre la flessione è stata del 26,8%, mentre nel complesso dei primi 10 mesi il calo è stato del 20,1%. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come ci diceva poco fa Gigi Donelli in diretta da Oslo, è iniziata la cerimonia per consegnare il Nobel per la pace all'Unione Europea. E per avvicinare i giovani, l'Unione Europea ha lanciato quest'anno un concorso per il miglior tweet sulla pace, il migliore messaggio su Twitter. Lo ha vinto una ragazza italiana di 16 anni, si chiama Elena. L'ha intervistata poco fa, prima della cerimonia, Gigi Donelli. Ho scritto un tweet, un acronimo, pace, ponte a 20 comuni estremità. Quando mi hanno chiamato ero sorpresa all'ennesima potenza. Si fa un gran parlare naturalmente dell'Unione Europea, della crisi economica e monetaria, eccetera. A 16 anni si percepisce tutto questo? Assolutamente sì, penso che si percepisca ormai anche da ragazzi più giovani di me, perché si percepisce ovunque, veramente. Cosa ne pensi? È un'Europa anche da criticare e su che punti? Beh, ci sono punti da criticare, ma ci sono anche molti punti a favore, perché siamo un insieme di stati che comunque funziona in qualche modo. Dove deve fare i maggiori sforzi? Io so che molti giovani, quasi tutti i miei amici, che non sentono l'Unione Europea, e quindi magari partire da informare i giovani che questa Unione c'è e sta lavorando per noi. Prima del calcio, con cui concluderemo questa edizione, abbiamo due notizie, una arriva dalla Germania, l'altra dall'Egitto. La tedesca Opel non produrrà più automobili nello stabilimento di Bochum a partire dal 2016. La casa d'auto di proprietà dell'americana General Motors reagisce così alle gravi perdite riportate quest'anno nella fabbrica, che ha oltre 50 anni, sono a rischio 3.000 posti di lavoro. Il presidente egiziano Morsi ha ordinato all'esercito di assumere da oggi i poteri della sicurezza, incluso quello di arrestare i civili. La misura straordinaria è in vigore fino all'annuncio dei risultati del referendum previsto sabato prossimo sul progetto di Costituzione. E come dicevo, veniamo al calcio. Si chiude questa sera il programma della giornata di Serie A, alle 19 Sampdoria Udinese, a seguire alle 21 Bologna Lazio. Ma facciamo il punto sulla giornata di Serie A con Carlo Genta. Buongiorno Carlo. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque è l'Inter a ricandidarsi come anti-Juventus vincendo con il Napoli 2-1. Una bella partita, una Inter convincente dopo un periodo un po' di flessione dopo la vittoria sulla Juventus a Torino. La Juventus continua a viaggiare forte, vince anche a Palermo, festeggia il ritorno di Conte. Dunque questi i due grandi temi della giornata insieme ad un Milan per il quale evidentemente la cura Berlusconi funziona, Milan che va a vincere di goleada a Torino e risale la china della classifica. Sempre più triste la situazione del Genoa, ora penultimo in classifica, ma anche quella del Palermo, molto difficile, due squadre che certo alla vigilia non sembravano insomma accreditate per una stagione di tale sofferenza. Prima di chiudere sentiamo un paio di voci che non possono essere quelle dei due allenatori protagonisti della domenica. Da una parte Stramaccioni, che ha battuto il Napoli e si è riportato secondo in classifica a 4 punti dalla signora, e dall'altra rientrante Conte. Partiamo da Stramaccioni. È una vittoria importante che ci fa capire che poi ce la possiamo giocare con tutti e dobbiamo migliorare tanto. Noi, lo ripeto sempre, abbiamo delle caratteristiche ben precise e io devo cercare di mettere i miei calciatori di esprimersi al meglio. E ora sentiamo Antonio Conte, che può ritornare con maggiore serenità su un momento difficile come quello della lunga squalifica. Ho dovuto affrontare questa vicenda e penso che sia stata comunque formativa sotto tanti punti di vista. Penso che la squadra abbia risposto in maniera straordinaria, io voglio ringraziare i giocatori, perché secondo me chi riesce a fare in 4 mesi quello che abbiamo fatto noi significa che io ho dei giocatori speciali, speciale la società, forse un po' speciale sono anche io, ecco. È tutto per questa pagina sportiva, restituisco la linea allo studio. Bene, grazie Carlo, è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Paglierini, che vi saluta, vi auguro una buona giornata e grazie anche a Gianmarco Ferronato, che si è occupato della parte tecnica. GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. Inizia oggi il Courmayeur Noirin Festival, che con Radio 24 seguiremo per tutta la settimana. Tra gli ospiti il regista Gabriele Salvatores, che mostrerà in anteprima alcune scene del nuovo film Educazione Siberiana. La pellicola è tratta dal romanzo omonimo di Nikolai Lenin. Il festival chiuderà invece con un'anteprima a Disney il 15 dicembre, il nuovo film d'animazione di Tim Burton, Frankenweenie, nelle sale dal 17 gennaio. È basato sul rapporto che io da piccolo avevo con il mio cane, racconta Tim Burton, perché forse il rapporto con il cane è la prima grande relazione che viviamo nella nostra vita. E il protagonista, il piccolo Victor, è una specie di divertente mini scienziato pazzo che vuole riportare in vita il suo cane. Telefono. Ha detto telefono! Non ti sei lavato le orecchie stamattina, ha detto telefono! Casa. Questa settimana al cinema torna E.T., da oggi e per 3 giorni il capolavoro di Steven Spielberg in versione restaurata. Il film uscì nelle sale italiane 30 anni fa, il 7 dicembre 1982. E a Natale siamo tutti bambini, entriamo quindi in clima di feste. Sarà questa sera al Manzoni di Milano, ma poi fino a fine dicembre in tournée in tutta Italia il trio più bizzarro del teatro italiano, Natale con le sorelle Marinetti, il maestro Christian Schmitz. È un tour che ci porterà in alcune città italiane, proprio incentrato intorno al tema del Natale, un po' ricreare quello che poteva essere l'atmosfera del periodo dell'Avvento in una casa italiana degli anni 30 e 40. Quindi si andranno a ripercorrere alcuni dei momenti musicali che per noi sono molto importanti, quindi il repertorio delle sorelle Lescano e il repertorio swing italiano sempre degli anni 30 e 40, ma anche alcuni bellissimi brani natalizi che sono gioco forza di importazione. Para che? Para che haces tanto drama sin motivo? ¿Para qué? si tú sabes que sin ti igual yo vivo. ¿Para qué? Se tropiezan las palabras en tu boca y te inventas fantasías para dejar. Ultimo pagina purtroppo per una brutta notizia. Era considerata la Diana Ross della musica latina. Jenny Rivera, 43 anni, è morta in un incidente aereo in Messico a bordo di un velivolo privato. La Rivera era anche uno dei giudici del popolarissimo talent show La Voce. E per il GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.